Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Preparei um textinho aqui para o dia de hoje. A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa. Para mantermos a luz que ilumina nossa carreira, que é intensa, mas curta. O Neymar. Olha, mercado do Neymar. Sembra um funerale, sì. Giorgio De Luca, il nostro autore, Filippo Aureggi in regia e Filippo Maria Ricci dalla Spagna, che era andato in vacanza con un paese allegro, festante, pieno di titoli, di bandiere, di lustrini, ed è tornato e ha trovato il corteo funebre. Ciao Phil! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! E allora? Ma no, ma Neymar dove vuoi che vada? Ma no, doveva venire Verratti? Venire Verratti e invece è andato Neymar. Invece Neymar è andato da Verratti. Senti, sono un po' cambiate le cose, la prospettiva è cambiata. Ma dimmi, adesso possiamo parlare appunto postumi, no? Praticamente. Sì. Tu fiuti l'aria della Spagna ormai da molti anni e con grande abilità. Adesso me lo puoi dire la verità, avevi sentito il profumo di questa cosa? Allora, no, bisogna essere onesti. Io ho sempre pensato che Neymar non andasse via, sì. Però diciamo in un ambito di accettando una discussione sul tema. Cioè, se tu mi dicevi, torniamo indietro di 6 mesi, mi dici, Neymar la prossima estate se ne va. Io ti dico no, non se ne va, quindi sbaglio, però ne parlo. Non ti dico, no Carlo, lascia perdere, cosa dici? Capito? Cioè, la discussione poteva starci. Io però pensavo che non andasse via, però poi adesso analizzandolo poi a fondo, appunto io ho preso una piccola vacanza dalla vacanza per scrivere una cosa sulla Gazzetta, c'è un episodio, vuol dire, qui ci sono ovviamente in ballo tantissimi soldi, che sono sempre importanti, e va bene, no? Poi, però ribadiamo un'altra volta insieme e in coro una cosa, 800240024, aprite bene le orecchie. Neymar aveva appiccicato il cartellino del prezzo fatto dal Barça, esattamente come Higuain l'anno passato. Questo vuol dire... Perché sennò, sai, Carlo, se gli mettevano la clausola di 1 milione... Bravissimo. Però perché non hanno messo quella clausola? Probabilmente perché Neymar senior non ha voluto. Poi parliamo però di Neymar detto questo, senior, io vorrei insistere un po' di più, perché i soldi è troppo facile, parla sempre di soldi. Cioè, qui c'è un tema di ambizione importante. E il messaggio che ha postato ieri sera Neymar su Instagram è un messaggio di ambizione. Vuol dire, è chiaro che l'ambizione cresce se ti offrono 300 milioni. Questo d'accordo, sì. No? Non facciamo, non è che ci si nasconde. Però io ti vorrei richiamare l'attenzione tua e degli ascoltatori su un episodio. Dopo il 6-1 al Paris Saint-Germain, in cui Neymar fa tutto, no? In quegli 8 minuti lui fa punizione, rigore e poi l'assist. Tanto no? Tutti insieme stiamo guardando in questo momento la conferenza stampa al Parco dei Principi di presentazione di Neymar con la nuova maglia. Dimmi. Ritorno a quella serata, l'8 marzo. La foto del giorno dopo qual è? Messi? Che è quella foto bellissima che ha fatto il giro del mondo, con Messi davanti alla curva, presa dal fotografo sotto la curva, Messi sollevato ed è l'eroe della serata. Sì. Insomma, no, però. almeno tu una dici, foto vogliamo dare. Io voglio essere il re. Neymar vuole essere il re. Giusto? Quella sera lì è una serata importante, soprattutto vista adesso. Allora uno dice, va bene, lui ha sempre fatto il vassallo. No, io l'altro giorno ricordavo, appunto, lui quando viene 4 anni fa dice, voglio aiutare Messi a vincere altri palloni d'oro. Sì. Adesso ti vuole vincere lui. Beh. C'ha 25 anni, ha fatto 4 anni di apprendistato e ti dico, quella serata là, che è la serata in Europa, è la serata più famosa di Neymar, la serata migliore. Si chiude come? Con una foto di Messi. Sì. Allora, probabilmente tu dici... C'è qualcosa che non va. questo, come capito? Sì, tu, sì, sì, no, ho capito perfettamente, Filippo. Cioè io, tutto... io voglio essere re di una squadra di re, no? Sta parlando El Khelaifi che ha chiuso questo affare, il grande boss. C'è l'ambizione, Carlo, l'ambizione c'è. Cioè, lui allora, c'è l'ambizione. Poi c'è il mondiale l'anno prossimo. Ok, e poi c'è il Brasile che osserva, che in questo momento praticamente il Paris Saint-Germain è la squadra che tutti i brasiliani tifano insieme alla selezione. Però c'è un contratto, lo ripetiamo, l'abbiamo detto ieri chiaramente, il contratto sui diritti televisivi del campionato francese in Brasile è detenuto da ESPN Brasil, attualmente scade l'anno prossimo, si prevede battaglia col Macete che farà grandinare denaro sulla Francia intera. Questo per inciso. No, ma certo, il denaro è facile, però io ho detto, per me io ci vedo anche una sfida sportiva. E sì, infatti Filippo. Neymar anche Messi l'ha salutato cordialmente. Cioè, è come cosa deve, se lui deve vincere, provare a vincere un pallone d'oro, non lo potrà mai vincere al Barcellona, o comunque sarà molto difficile vincere al Barcellona. Perché da una parte c'è Ronaldo, dall'altra c'è Messi, lui doveva andare a creare un terzo polo, sì. E l'ha creato in una situazione molto brasiliana. Per me l'arrivo, lo sbarco di Dani Alves è decisivo in questa, in tutta questa storia, perché Dani Alves tra l'altro ce l'ha col Barcellona e quindi avrà sicuramente... Cioè, tu dici è stato il cavallo di Troia, uno dei cavalli di Troia. Ci sono altri 4-5 brasiliani di peso, e quindi lui li può creare. Parigi non è Manchester, voglio dire, proprio a livello di città e di attrazioni. Lui c'era andato anche in vacanza, si era divertito, è un po' un ragazzino, insomma gli piace. Per cui ci sono tante situazioni positive che si sono allineate e lui scommette su se stesso, perché alla fine è questo. Allora, mi consenti una cosa, ma è tutto perfetto Filippo, è tutto esatto, tutto corretto, però c'è un però. Il però si chiama Neymar Senior, che è una figura che tu conoscerai meglio di me, non so se abbia in questo momento procedimenti a carico in Brasile o in Spagna, certamente è una persona non così raccomandabile, si tramanda, non so se l'hai mai visto. Discutibile, chiacchierata, che ha cominciato a fare soldi col bambino quando aveva 13 anni, diritti d'immagine, eccetera, eccetera, e che ha fatto il colpo della vita, altro che Neymar, Donnarumma, Raiola, tutti quelli che volete. In una settimana, in 5 giorni, mi raccontava Giorgio De Luca ieri, ha incassato 26 milioni dal Barça per il rinnovo del contratto. Quelli sono ancora dal notaio. Sì, saranno dal notaio, ma glieli danno, perché sono scritti sul contratto. No, rinnovo di Neymar, tu prendi 26. Ok, sì. Trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain, tu prendi 30, 56 in una settimana. Sì. Eh? Sì. Così, no? Ne aveva presi 40 anche 4 anni fa. Si vede che ogni 4 anni deve prendere 23 lì. Ragazzi, la vita costa, poverino. Fa una vita monastica. E il ragazzino non ci raccontano tutti, tu lo saprai benissimo, non va neanche in bagno senza permesso del papà. Sì, la cosa strana è che ieri lui in questo messaggio, che io lì, ovviamente ormai i calciatori li vediamo poco, soprattutto a quel livello, mi piacerebbe chiedere, perché lui ha scritto nel suo post, dice che è andato contro la volontà del padre. Per me è una bugia colossale, per come la vedo io. Però No. Tutti dicono, guarda, ieri abbiamo fatto una interessantissima chiacchierata con Bertozzi, che è il pardo del Sud America, no? Tanto sì, per sì, intendere. Lo conosco, grandissimo. Grandissimo. Sì. E diceva che assicurava e giurava con la mano sul cuore che Neymar, se il papà gli dice di andare a giocare, fai una squadra al Benevento, Neymar va al Benevento. Certo, certo. Cioè decide solo lui. Però perché ha dovuto mettere questa frase nel suo post così? Forse per rivendicarsi o per rivendicare uno smarcamento dal padre, sì, ma molto strano. L'unica cosa che non ho capito di quel post. Noi per primi diciamo, scriviamo tante cazzate. Il padre gestisce un'azienda e basta. E voglio dire, tant'è vero che la cosa clamorosa è il primo trasferimento, anche perché questo è più, tra virgolette, più alla luce del sole. Sul primo ci sono ancora delle cause aperte. Certo, il Barcellona ha fatto una conferenza stampa dicendo che l'avevano pagato 57 milioni, poi hanno detto 86, e poi il giudice dice 96, e poi si vedrà. Questo perché? Perché c'è di mezzo il padre, che tra l'altro ha voluto un po', secondo me, maneggiare con i brasiliani, lì gli ha un po' fatto carta vince, carta perde, certo. Il gioco delle tre carte gliel'ha fatta sparire. Però, detto questo, io dico, ora sono molto curioso, abbiamo, diciamo, a livello di noi come neutrali, come sportivi, abbiamo una squadra in più da vedere, un campione certo. in più da vedere. Si è rotto il duopolio, per me si rompe il duopolio del pallone d'oro. E finalmente, no, ben venga, sono 10 anni che dico solo quei due. Ma tanto guarda, quello lì non lo conto neanche più, non lo considero più, non mi interessa, non me ne frega niente. Io, no, vabbè, allora, però in generale, come sfida... Tutti convocati. Beh certo, Neymar ha appena chiuso la sua conferenza stampa di presentazione al Paris Saint-Germain dicendo varie cose, tra le quali una che è scontatissima, che non ha mica pensato ai soldi, non c'entrano nulla in questa vicenda, ha messo al primo posto la felicità, happiness. Poi se la felicità ti permette anche di raddoppiare così da un giorno all'altro lo stipendio, passando da 15 a 30 milioni di euro, e vabbè, sì, sarai, ma i soldi non fanno la felicità, è inutile. Poi c'è chi mi scrive che te ne frega se il padre incassa, bravo lui, ma a me niente, ma sono contentissimo per il signor Neymar Senior, io sono felicissimo di questo trasferimento, sono molto contento per Neymar che va in una bella città, guadagna di più, sono contento per il calcio francese, per il calcio internazionale, è un'altra bella sfida. Io approvo al 110% questo trasferimento che è stato meraviglioso. 800240024. Luca Gregorio è invece voce di Mediaset Premium per quanto riguarda una Ligue 1 che ha messo la freccia del sorpasso anche sulla Serie A. Ciao Luca. Ciao, buongiorno. Cosa ti aspetti? Effetto Neymar sulla Ligue 1. Abbiamo parlato di reti televisivi, quattrini, eccetera, eccetera. Ma l'effetto qual è già stato, secondo te? Quale sarà? Intanto, concedimi una battuta, che è un bene anche per noi, perché almeno lo posso raccontare tutte le settimane. Quindi sicuramente per Premium è un gran colpo. No, a parte gli scherzi, è sicuramente il colpo del secolo a livello economico per ora, perché aspettiamoci di vedere infrangere questa barriera nei prossimi anni. Sicuramente a livello mediatico, oggi facevano un calcolo che già solo dalla vendita delle magliette nelle prime 24 ore hanno raggiunto i 10 milioni di euro, quindi qualcosa torna anche a livello economico, ritornerà, aumenta. Guarda, il valore del brand del Paris Saint-Germain. Io ti do un'altra cifra a proposito del merchandising e delle magliette che arriva dalle solite fonti accreditate del piano di sopra, sapete benissimo a chi mi riferisco. Allora, le magliette, cioè solo alla voce merchandising, il Paris Saint-Germain incasserà in un anno 100 milioni. Cioè, già adesso vale 100 milioni, già ripresi. Okay. Quindi siamo alla prego, metà. Prego, no, anche perché all'estero non sono così popolari le bancarelle che vendono le magliette tarocca a 10 euro. Esatto, o a 5 se la squadra perde. Le comprano originali. No, è vero, per rispondere alla tua domanda dal punto di vista tecnico è ovvio che aumenta il valore della Ligue 1, però attenzione, perché in realtà c'è il rischio anche che si crei nuovamente una frattura fra Paris Saint-Germain e tutte le altre, a maggior ragione con la filosofia del Monaco che è totalmente diversa. Loro comprano dei campioncini ma poi fanno registrare plusvalenze da record, quindi in realtà li vendono i giocatori migliori. Quindi probabilmente andremo verso nuovamente un dominio totale del Paris Saint-Germain. L'anno scorso ci siamo divertiti tanto, ma è stato forse un unicum. Adesso il rischio è proprio questo di una frattura, e quindi di un campionato che rischia di essere meno divertente. Ci auguriamo di no, ma questo è il rischio. No, e poi come... Dimmi. Vai. E come diceva giustamente il solito geniale José Mourinho, è il neymarismo che verrà nei prossimi anni, di cui secondo me qualche traccia abbiamo già visto adesso, cioè che giocatori mediocri verranno pagati 70, 80, 100 milioni di euro. Io su questo non sono d'accordo, sai Luca? Io su questo non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, non sono d'accordo perché è una cifra che non costituisce un parametro. Cioè una cifra così elevata che non costituisce un parametro per nulla, cioè è un unicum. È come, non so se l'ho fatto ieri in onda o fuori onda il paragone, se tu volessi comprare la Gioconda avrai appena andata in bagno. Cioè è un unicum, non rappresenta un parametro di riferimento per il calciomercato. Cioè non è che si parametra tutto sui 222 di Neymar, se no i giocatori non circolano più. Un'altra cosa ti volevo chiedere prima di salutarti, e arriva da questo audio, perché non si vive di solo Neymar, nemmeno in Francia. La Francia in questo momento popolarissima anche in Italia, non solo per le vacanze in Costa Azzurra. Allora, sorteggio di oggi a Neon. Napoli, ci siamo. SC Napoli. La prima a San Paolo. Lì. UGC Nice. Contro il Nice. Napoli facing UGC Nice. For Nice. Balotelli a San Paolo. Che fortunelli, eh? Beh, è stato l'accoppiamento peggiore, però non spaventiamoci, nel senso che il Napoli tecnicamente rimane due spanne, forse tre, sopra il Nizza, che è una squadra che ha una filosofia di gioco, un'identità, però è una squadra, permettetemi, mediocre dal punto di vista tecnico, molto ben messa in campo, con un ottimo tecnico come Favre, con Balotelli che se si sveglia bene può fare danni, ma se no diventa un giocatore normale. Il Napoli è molto più consolidato e ci ha già dato dei segnali molto incoraggianti nel corso di quest'estate. C'è magari un piccolo brivido per il ritorno a Nizza, che è un bellissimo stadio, un bellissimo ambiente, una torsida, però insomma diciamo che poteva andare meglio, ma il Napoli non credo possa avere paura di nessuno. No, ma non doveva avere paura neanche l'Atletico Bilbao. Assolutamente. Anche lo stesso Benitez ha detto questo. E poi infatti ha passato il turno e ha fatto una splendida Champions League. Grazie Luca! Grazie a voi, buona giornata! A presto, divertiti col campionato francese, torniamo a sentirci naturalmente. Eccolo là, Boris Sollazzo. Salve a Boris tutti! Boris Sollazzo. Eccolo. Beh, vai a Nizza, no? Sei contento? Sì, gita, no, no, gita in questa zona, andiamo insieme. Sì, d'altronde, no, tutti gli anni vado a Cannes, perché non tornare a Nizza? No, non potete immaginare quanto sono contento. Ma ve lo immagino, poi è uno splendido stadio in Nizza, meraviglioso, sì, si vede dall'autostrada. Con un giocatore che segna al Napoli appena lo vede, Balotelli esatto. È riuscito a segnare al Napoli anche con il Manchester City. Anche dormendo, gliela pianta di sicuro. Detto questo? Detto questo, che vi devo dire, insomma, l'unica volta che avevamo avuto un buon sorteggio, che era i gironi dell'anno scorso, poi siamo stati puniti con Real Madrid, non mi stupisce nulla, nel senso che ero abbastanza sicuro che avremmo preso il Nizza o l'Hoffenheim. Secondo me tra i due il peggiore è il Nizza, poi onestamente, come nel caso dell'Atletico Bilbao, noi siamo più forti del Nizza e questo renderà quasi certa la nostra eliminazione, insomma. Sì. Attenzione, se renderà quasi certa la vostra eliminazione, siete già con un piede nella fossa, lo sappiamo perfettamente. Poi figuriamoci. Guardando le partite possibili, sì, di Europa, no, ma guarda, è inutile che ne parli con te, perché sei di una noia mortale. L'unica cosa, posso farti una distinzione se consenti? Sì. Allora, che in quel Napoli era una cosa allenata dal signore che ho citato prima, cioè Rafa Benitez, che, come ti ricordi bene, ha saltato l'ostacolo Athletic Bilbao e poi avete fatto un'eccellente Champions League, o mi sbaglio? È andata così, più o meno, questo Napoli a me sembra un'altra cosa, e soprattutto Sterra, no? In che senso, scusa? Cioè, sull'Atletico Bilbao, ti ricordi come è finita? Ma certo, Boris, ma se lo ricorda tutto il mondo, solo voi napoletani avete rimosso. Infatti Giorgio De Luca, per Giorgio De Luca quella partita non si è mai giocata, quella io doppio confronto lì, io non stavo è mai esistito, giusto? Io stavo lì e ricordo solo chiacchierate con i tifosi dell'Atletico Bilbao, poi non mi ricordo di esserci entrato. No, sei stato al Guggenheim, hai fatto dei giri. Esatto. No, al di là di tutte queste stupidaggini che stiamo dicendo, sul serio, questo Napoli è un'altra cosa, e soprattutto Sarri è un altro tipo di allenatore, cioè non, adesso al di là delle scaramanzie, dei corsi e ricorsi, non esiste alcun parallelo. Beh, fino a un certo punto, nel senso che intanto la situazione mi sembra simile, un Napoli abbastanza fermo sul mercato come allora, che si tiene tutti più forti ma che non compra sostanzialmente nessuno. Allora arrivarono De Guzman e David Lopez, questa volta Unas e Mario Rui, e peraltro è un Napoli che comunque ha avuto il braccino corto in Europa, non dico tanto contro il Real Madrid, per carità, perché si è usciti facendo un figurone e probabilmente risultando come una delle squadre che gioca meglio in Europa, ma quanto nel girone, no? Mi ricordo un 3-2 col Besiktas, mi ricordo anche un ritorno al Besiktas molto complicato. Cioè il Napoli, anche con Sarri, quando si è ritrovato a dover giocarsi contro una squadra decisamente più debole, la qualificazione ha avuto il braccino corto, anche con Sarri, perché temo che poi la maturità europea non dipenda solo dal gioco e dalla forza della squadra, ma anche dall'esperienza. Sì, però quindi questo mi fa paura. Poi mi permetta di fare un altro distinguo. Allora, questo Napoli è già più di partenza più forte di quello. Punto primo, non ha speso sul mercato, ma questo tu lo leggi. Ho capito, però questo Napoli nel complesso è secondo me più forte. Punto primo. Punto secondo, c'è questa distanza tra me e te, tu calcoli, valuti chi è arrivato, io valuto chi non è partito, e questo lo trovo un valore aggiunto. Il valore aggiunto. Anche loro erano rimasti insigne, Higuain, anche quella non era una cattiva squadra. Non era una cattiva squadra, ma allora ti piace di più questo Napoli o quello? Forte, ti piace di più questo Napoli o quello? No, mi piace più questo Napoli, ovviamente. Allora, punto e ma basta. Questo Napoli non è, secondo me, non è nella rosa più forte. È un Napoli che la cui somma dei fattori è maggiore rispetto ai fattori stessi. Certo, grazie a Sarri. Sono d'accordissimo. Mentre probabilmente con Benitez era il contrario. Esatto. Ed è questa la differenza. Però in Europa Sarri, diciamo, ha gonfiato meno il petto, probabilmente perché lì serve anche qualcos'altro oltre a saper giocare, serve anche il saperci stare. Quindi il Nizza mi sembra a livello di gioco più forte di quel Bilbao, che era una squadretta e con cui noi avremmo potuto vincere tranquillamente anche allora. Amico mio, gli diamo il tempo a Sarri di giocare le partite europee? Deve più gonfiare il petto, ma cioè, ha giocato una stagione europea in carriera, No, no, per carità, ma infatti io, insomma, starò a Nizza, voglio dire, non è che non ci credo, cioè ci spero. Avrei preferito andare a Istanbul, ecco, diciamo così, tanto per intenderci. Avrei preferito comunque avere un inizio, e credo anche Sarri, un inizio più tranquillo. Così vuol dire anticipare di una settimana la tensione, doversi giocare parecchio, probabilmente pagare anche in campionato. Speriamo, insomma, che sia una bella partita. Poi c'è pure da dire che il Napoli fa bene con le squadre forti e fa male con le squadre piccole, quindi magari invece è il sorteggio migliore possibile. No, certo, poi se la smette magari di prendere anche gol su calcio piazzato, siamo tutti più contenti, no? Assolutamente, anche se, insomma, anche là, voglio dire, no? Fai una squadra in cui l'altezza media, se togli gli estremi, è 1,75, non è che può essere colpa di Sarri. No, ma infatti stanno, come dicevo l'altro giorno, stanno trattando Gallinari tanto a basket, cioè a calcio non si gioca con le mani. Grazie Boris! Pensavo per i pugni, pensavo. No, no, magari prende a calci gli avversari stavolta. Grazie Boris, ciao! Grazie a voi, non ti preoccupare, non ti preoccupare, stai sereno. Borse, torniamo. Tutti convocati. Nell'ultimo anno abbiamo prodotto un numero di dati superiore a quello generato nell'intera storia dell'umanità. Dati che sono il nutrimento dell'intelligenza artificiale, delle macchine di propaganda, delle strategie commerciali e della guerra digitale. Dati che sono la vera ricchezza, il nuovo petrolio dei grandi colossi del digitale. Codice Sorgente indaga e si interroga su come vengono utilizzati, quanto valgono e di chi sono. Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Fino al 3 settembre, il sabato alle 16 e la domenica alle 10. Su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ottima partenza del Milan, il cross di Suso, calancia una mano, la respinta nella zona di Bonaventura. Questa volta il gol è regolarissimo. C'è Bonaventura, 1-0. Tutti vogliamo aiutare la squadra e tutti si sono messi a disposizione, quindi per adesso il gruppo è fantastico, tutti stanno lavorando bene, quindi penso che alla fine della stagione ognuno avrà dato il suo contributo. Alla fine Riccardo Rodriguez, ottima traiettoria, la marca Musacchio alla fine. Prova il gol del 2-0. Io penso che abbiano dato una dimostrazione di amore profondo veramente per la squadra. Il 3 agosto riempire uno stadio così, con tutto rispetto degli avversari, non con un avversario di grido, è sicuramente veramente una grandissima responsabilità. Abbiamo vissuto una bellissima serata dove vorremmo davvero che ce ne fossero tante altre, e naturalmente dipende molto anche da noi e quello che riusciremo a fare in campo, però credo che la volontà e la voglia di fare il massimo si intraveda già da parte di tutti i giocatori. Allora, ha ragione naturalmente Montella, al di là dell'avversario, Università di Craiova, peraltro già battuto 1-0 all'andata, cioè questo 2-0, il lato politico non sta tanto su quel che si è visto sul Prato Verde quanto in quei 60.000 allo stadio. Che ne parlavo ieri con Ciccio Ordine, come dato così a me, hanno subito richiamato all'immagine una partita che è diventata simbolica, no, del Milan. Serie B, anno non ricordo quale esattamente, Milan-Cavese, presenze 60.000 a San Siro. Ciao Filippo Galli. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Phil, responsabile settore giovanile del Milan, come tutti sapete, nonché bandiera e leggenda del Milan. Ciccio Ordine invece ha paragonato questi 60.000 al giorno degli elicotteri della cavalcata delle Valchirie. A te viene in mente qualche altra immagine per definire questa? No, altre immagini no, però sicuramente è bellissimo vedere di nuovo i tifosi rossoneri arrivare allo stadio con entusiasmo. Sì. Siamo al 4 di agosto, ieri al 3, trovare tutta questa gente anche con quel clima, insomma, vuol dire davvero che la squadra si è riavvicinata, cioè i tifosi sono riavvicinati alla squadra, e quindi c'è di grande entusiasmo anche per la grande campagna che è stata fatta dal club finora. Direi che insomma c'è tutto, speriamo davvero per fare un'annata di nuovo ai vertici come eravamo abituati fino a qualche anno fa. Ma in ogni caso, vabbè, un Milan chiaramente già competitivo secondo me per la, ovviamente, la corsa alla Champions League, per le prime quattro posizioni. Poi è una questione di assemblamento, tu ne sai più di me quanto è anche una bella sfida per Montella, perché io non ho mai visto a memoria una squadra da costruire praticamente per 9 undicesimi, no? Sì, a me piace molto Montella, il suo modo di lavorare, lavora sui principi di gioco, e quindi mi sembra comunque di aver già visto tante belle cose in queste prime partite della stagione, due partite tra l'altro importanti, comunque al di là dell'avversario, però poi le partite vengono fatte diventare facili dalla squadra che scende in campo, e Milan è stato bravo in questo, è stato bravo Montella a preparare la squadra. È chiaro che, ripeto, la società ha dato a disposizione tanti giocatori nuovi, tanti giocatori di qualità al mister, sì. E insomma tutti quanti gli augurano davvero di fare un buon lavoro con questo gruppo. Senti, tu che sei bravissimo con le lingue, mi aiuti a tradurre il nome dei prossimi avversari macedoni? Si dice Skendia o Skendia? I don't know. Ho anche chiesto a Giampaolo Musumeci, cioè gente che sa le lingue. Secondo noi si dice Skendia, prossimo avversario del Milan in Champions League, sorteggio in Europa League, sorteggio avvenuto oggi. Ieri, ovviamente, da una parte ovviamente, dall'altra in maniera meno prevedibile, due grandi protagonisti della partita sono stati, quello più atteso, che era il giocatore che gioca in porta, e sono due giocatori ovviamente innaffiati e cresciuti sotto l'ala del signor Filippo Galli. C'era così il toto accoglienza su Donnarumma. L'accoglienza a Donnarumma è stata splendida, e sentiamo questo. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza e per il calore che mi hanno fatto sentire sin da subito. E sinceramente non me l'aspettavo, ma sono molto contento di come mi hanno accolto, e posso solo dire che io darò sempre tutto per questa maglia. Quindi non sono arrivati dollari fasulli, dollari farlocchi, come era capitato in Polonia su Donnarumma con la maglia azzurra, però non era così scontato che il pueblo reagisse in questa maniera, o no, Phil? Beh, insomma, alla fine è sempre il campo quello che parla, quello che mette tutte le cose a posto. Direi che Gigio ha fatto bene là, all'andata, la partita d'andata, e poi, certo, qui a San Siro c'erano 75.000 persone, però insomma i tifosi rossoneri credo che non volessero davvero giustamente rovinare un appuntamento così importante, ritorno in Europa, e quindi sono stati tutti dalla parte di Gigio. Gigio ha fatto una grande parata, ha fatto una buonissima prestazione, così come ha fatto Cotrone, così come lo stesso Locatelli, soprattutto nella seconda parte della gara. Quindi insomma, dal punto di vista dei ragazzi che arrivano a settore giovanile, siamo molto contenti. A questo proposito, per l'appunto, Cutrone, cioè Donnarumma, vabbè, inutile stare a discuterne. Cutrone ieri è stato protagonista assoluto della partita, anche con un gol. Ne ha parlato Montella subito dopo la gara. Ha fatto un'ottima partita, oggi avevamo tanti giovani, non so l'età media della squadra, un portiere 99, diciamo così, la spina dorsale era molto molto giovane, compreso Locatelli che è un 98 e Cutrone anche. fatto un'ottima partita, i ragazzi stanno crescendo bene, sempre grazie, ringraziamo il settore giovanile del Milan che riesce a portare in prima squadra calciatori così, e lui ci può stare, insomma, sta dimostrando di poter stare in questa rosa. Ad oggi non c'è nessuna intenzione né mia né della società, penso neanche dei ragazzi, di andare via. Poi dipende da tante cose, dipende forse, ma dico veramente forse, dal mercato, ma sicuramente credo che Cutrone possa crescere moltissimo anche stando qui al Milan. Me ne parli un po' di Cutrone, Filippo. Ma Patrick ha sempre avuto questa confidenza con il gol, questa grande voglia di far gol, insomma, un gol un po' nel DNA, perché ha sempre fatto gol in tutte le categorie. Poi ha questa voglia di migliorarsi sempre il primo dal punto di vista dell'impegno, della voglia di ogni giorno di dimostrare di essere un attaccante vero. Quindi questo è sicuramente il suo miglior pregio. A volte lui si incaponisce, si imbruttisce quando non trova la via del gol, però credo che anche qui sia maturato molto nell'ultimo anno e mezzo, insomma, da quando la metà della scorsa stagione si allena con la prima squadra, con Mister Montella, e quindi insomma davvero grande Patrick, ma credo che con la voglia che ha saprà ancora crescere e migliorare. Ecco, un'ultima cosa che non riguarda il Milan, Filippo, dato che è argomento di discussione ovviamente in questi giorni, lo sarà nei prossimi anni, mesi, secoli. Neymar, qual è la tua valutazione? Secondo me non rappresenta un parametro di riferimento, cioè per il calciomercato, perché non è che si va da Neymar a tarare il valore dei giocatori, perché quello è fuori misura. Difficile dire qualcosa, poter dire qualcosa di sensato rispetto a questo tipo di operazione. Non si conoscono, non si conosce come sia nata, il perché, come si è sviluppata, si conosce, almeno io certo. Conosco soltanto poi come è finita, e c'è da dire che è vero, insomma, una cifra così importante per il passaggio di un giocatore da un grande club a un altro è davvero incredibile. Sì. Però ecco, poi è sempre il mercato, no? Finiamo lì. Io ti aggiungo soltanto che da tifoso, cioè fossi un tifoso del Paris Saint Germain e mi prendono Neymar, anche se gli costa la luna, io sono contento. Fossi un tifoso del Milan, mi prendessero che ne so, Cristiano Ronaldo, anche se lo pagassero la luna, io sarei contento, non starei lì a fare la solita demagogia sul chi arriva a fine mese con 1500 tifoso, euro, eccetera, no? Sì, Carlo, assolutamente, dal punto di vista del tifoso è chiaro che il tifoso non può che essere contento, però insomma noi parliamo, io preferisco parlare di giovani, di ragazzi. No, ma questo è evidente, della nostra primavera, tra l'altro quest'anno avrà come guida Gattuso, e forse per di far completare questo percorso di crescita può essere sicuramente il mister giusto e via. Poi questo tipo di discorsi davvero non ti interessano, da affrontare. Non è che non mi interessa, per l'amore di Dio, sono un uomo di calcio ed è giusto affrontarli, però è difficile. Cioè, avere più roba da Belinazzo, lo sappiamo. Belinazzo, grande Belinazzo. che faccia Ringhio? È sul pezzo dal primo giorno, da quando è stato annunciato, insomma, ecco, è sul pezzo, quindi i ragazzi stanno lavorando Toro, poi partiranno per un torneo in Germania. Sì. Io dico la verità, sono in vacanza, sono a Bordeaux, anzi mi sto spostando da Bordeaux stamattina, però ho trascinato la mia compagna a vedere l'Academy, il centro di formazione del Bordeaux. Quindi, insomma, io spero che lei abbia fatto dell'altro o ti abbia mandato al diavolo. No, è venuta con me, ti vuole davvero tanto bene, va Filippo. Anch'io comunque, anch'io ti voglio bene, grazie. Grazie a voi. Ciao Filippo, ciao, sempre un piacere con Filippo Galli. Chiudiamo, prima di aprire la pagina di Racing Team, perché oggi è venerdì, ma siamo mica abbiamo una memoria corta, abbiamo il programma più corto, però Racing Team presente, Roberto Ungaro è già qui con me. Stiamo guardando insieme, tra l'altro, il venerdì di Brno. Prima però Robert da Pordenone, che grazie, mi dà una mano dal punto di vista linguistico. Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Ciao. La pronuncia esatta sarebbe Scandia. Scandia? Sì. Mo che me lo scrivo. SH è una S. Sì. Scandia. Scandia. Ok, quindi se mi capita di ripronunciarlo non faccio figuracce. Grazie Robert, però la tua vicinanza con... certamente con l'est europeo ti aiuta da questo punto di io, non ti chiedo come sia questo Scandia, perché se lo sai sei anche abbastanza malato di pallone. Sì, diciamo che Macedone però è dalla parte albanese, quindi, quindi l'Albania e la Macedonia è mezza Macedonia e Albania. Sì, quindi sì, questo, dal punto di vista geopolitico siamo preparati, dal punto di vista calcistico sullo Scandia ancora no. Forza Scandia comunque. Ah, di quello che vuoi, assolutamente, con pieno diritto di cittadino. Ma certo, Inter e Scandia. Ma fantastico, ripeti? Beh, Amala è la prima, poi Forza Scandia. Perfetto, questo ce lo teniamo registrato e quando giocherà il Milan lo manderemo in onda. Ci fermiamo per il traffico e poi Racing Team. Siete tutti convocati, siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Tutti convocati. Racing Team. Allora, Roberto Ungaro mi ha raggiunto e adesso tra poco andiamo. Ciao Roby. Ciao Carlo, ben ritrovati a tutti. Adesso andiamo a Brno, dove si sta girando per il venerdì delle prove, però non possiamo non partire da un angelo dei motori che è stato, ma adesso Roberto ne parlerà meglio, è stato, non so se il Valentino Rossi, l'Agostini, Angel Nieto, che è diventato un angelo sul serio. Sentiamo la sua voce. Bueno, yo creo que el Mundial siempre ha tenido, era bastante largo antes, ahora es más largo, pero el Mundial lo más importante es no estar un día el primero y luego desaparecer de la lista de los que puntúan, como mínimo, ¿no? La única diferencia que había antes en el Mundial con el Mundial de ahora es que en la época mía se descontaban los dos peores resultados de la tabla de la final, de la clasificación, ¿no? Yo hubo una época que era objetivo, era o ganar o me iba al suelo, ¿no? O la moto se rompía, eran las tres opciones que habían en una época grande, además, ¿no? Luego, ese momento yo intenté invertirlo y empecé a pensar sobre una moto, empecé a pensar qué había que hacer, y creo que hay muchas veces que hay que saber perder, y yo he sabido ganar y he sabido perder. Beh, io credo che un anno più bastardo del 2017 non ci possa essere, della serie infortuni strani che ci hanno privato di persone che amavamo, da Scarponi a Nicky Hayden, una serie incidenti impossibili, adesso anche Angel Nieto, che è stato per il motociclismo e per il motociclismo spagnolo come chi? Carlo, sì, ancora un momento triste, ed è la strada a portarceli via, questo che a me fa riflettere. Un altro campione che per un incidente banale su un quad a Ibiza ci ha lasciato. Pensa che ieri sera era prevista una conferenza stampa perché si diceva che stava migliorando, alle 18 era prevista, sì. E doveva parlare il figlio Pablo, che è il manager della VR46, ma purtroppo è peggiorato. Di colpo non si è neanche presentato Pablo, ovviamente, e questa triste notizia. Angel, che tutti conosciamo perché è un 12 più 1, Luis Scaramantico, sì. Quindi è secondo solo ad Agostini in quanto come a titoli. Ma quello che rappresenta lui è che è stato il primo pilota dell'era moderna, ha dato tanto alla Spagna, ma soprattutto al motociclismo, a questo sport. Il papà sportivo di tutti quelli che veniamo adesso. Sì, no? Pensa che lui, due figli, tutti e due hanno corso, anche il nipote, sì, Fonsi. E lui ha vinto anche un mondiale da manager, perché nel 99 conquistò con Alzamora un mondiale. Sì. È molto molto intelligente, furbo, viveva le corse. E quello che mi ha lasciato sono tutti i messaggi dei ragazzini anche spagnoli, perché lui è stato veramente un talent scout, li ha tirati su tutti tutti, grandi consigli per tutti, un grande amante della vita, amicissimo di Marco Lucchinelli, lo stesso Vale ha ricordato quando alle 5 non voleva ancora andarsene da quel locale. Pensa che il figlio fa il DJ adesso a Ibiza e tra l'altro ha molto successo, lui è stato sempre un frequentatore di quell'isola. E lo ricordiamo perché è amato da tutti, ha sempre avuto una parola, tanti consigli, è un mentore di tantissimi spagnoli, e infatti tutto il mondo delle due ruote è triste, noi non ce ne rendiamo conto perché in Italia è arrivata di riflessa la sua, diciamo, il suo alone, quello che è stato, però basta vedere nel web i messaggi che ci sono da parte di tutti, certo. E questo è un momento brutto. Senti me. Roberto, non andiamo oltre. Andiamo oltre, ok. Però allora non è mai abbastanza ripetere che saremo baiani, noiosi, saremo delle zie, però non me ne frega niente. Non è mai banale ripetere che in moto, su strada, bisogna avere una guida consapevole. Perché noi dipendiamo dagli altri. Bravo. E oggi purtroppo lo strumento telefonino, io continuo a ridirlo, ci distrae troppo quando siamo su un'auto, e noi che andiamo in moto vediamo di quelle cose, quindi dobbiamo essere noi a prevedere, anticipare lo sguardo assente, la traiettoria che non è quella giusta di un'auto. Adesso non voglio dare la colpa sulle auto, però tant'è che i piloti, a me piace ricordarlo, i piloti, quelli che noi vediamo a 300 e passa chilometri orari nel circuito, non fanno un metro per strada, perché per loro è inconcepibile, è troppo rischioso. Questo ci deve far riflettere, e questa è la cosa che tutti gli appassionati delle due ruote devono tenere ben presente. Ragazzi, ascoltate sempre, registrate, mettetevi sulla suoneria di quel vostro dannato telefonino queste parole di Roberto Ungaro, che è stato pilota, motociclista, e nessuno meglio di lui. Andiamo invece su quelli che vanno a 300 all'ora a Brno. Che è successo? Giro di boa, cambiamo registro, è una seconda parte del campionato entusiasmante, perché lo sappiamo, sono in quattro a giocarsi il titolo, tutti stretti in 10 punti. Stamattina pioggia, Zarco ha dato la zampata, il più veloce, però era poco attendibile come prove, perché appunto sul bagnato pochi rischiavano. Mi hanno detto che c'è un Lorenzo molto in forma, sorridente, positivo, deve provare una nuova carena. L'ha provata adesso, perché nelle seconde qualifiche si è vista questa nuova carena di Ducati, un profilo alare molto spinto. Hai notato qualcosa dal punto di vista tecnico, così prima vista? Allora, onda avvantaggiata, perché qui 2 settimane fa ha provato, Marquez ha scartato un nuovo telaio, comunque questo fa capire quanto HRC sta lavorando. E Ducati l'ho vista molto bene, perché anche Petrucci adesso è andato forte, e quindi una pista molto veloce dove contano le prestazioni. Si sono lamentati spesso di avvallamenti in rapida sequenza i piloti, dovremo vedere. Mi hanno detto che c'è molta umidità, caldo, ha piovuto, però tempo mutevole. Per domenica è previsto bel tempo, quindi non dovrebbe rovinarci lo spettacolo. Marquez in grande spolvero, e con lui anche Pedrosa, le due Honda, come era facile prevedere. Marquez ha rischiato ancora di cadere in queste prove, quindi non si risparmia. Aspettiamoci una Ducati che qui può far bene. Assolutamente. Sì. Allora sentiamo Rossi e poi Marquez sulla gara di Brno. Pista bellissima, difficile, molto, molto tecnica, però bella, lunga, divertente, veloce, dove si vedono sempre delle belle gare. Chi lo sa, l'anno scorso è andata bene, perché anche sull'asciutto ero veloce, però quest'anno è cambiato tutto, quindi bisogna che lo vediamo domani. Adesso già la Michelin, penso che davanti porta un gomme che non si parla tanto, un gomme una base più buona, e vediamo, perché veramente la temperatura è molto alta. Quando abbiamo fatto il test qui non era così alta, faceva caldo ma non era così alta, e vediamo come va, ma sì, abbiamo provato tante cose. Tipo? Qualcuna andava bene, qualcuna no, non si può dire tutto, ma sì, abbiamo provato dalle cose, ma soprattutto abbiamo lavorato per il setup e visto, abbiamo concentrato un po' di più per questo anno. Allora, fa sempre ridere, sorridere, sentire il Michelin di... Sì, in spagnolo lo chiamano così, Michelin. È la gomma che non si parla tanto, hai sentito? No, però si parla un casino di gomme. Sì, perché quanto contano qua? Contano molto, tre soluzioni per tutti, quindi abbiamo visto fino adesso in campionato che è stato l'ago della bilancia e purtroppo anche qua potrà esserlo. Aprilia ha portato un nuovo motore, sì. Tanto ha confermato Loves, a livello di mercato Miller è stato confermato al fianco di Petrucci, lo avevamo già anticipato. Ma Crocodile piace. Esatto, sì, piace, perché poi vederlo, Petrucci la sua dichiarazione ha detto sono contento perché mi è sempre piaciuto, bisogna vederlo quando è il tuo compagno di squadra, sì, perché il primo rivale, Carlo, ricordati, è il tuo compagno di squadra e può diventare scomodo. Altre cose di mercato non ce ne sono perché è tutto piatto e fermo, i contratti sono biennali, quindi alla fine dell'anno prossimo si vedranno sorprese, ma non ci sono piloti buoni liberi per accasarsi e le varie case non hanno tante possibilità, tant'è che Aprilia si è tenuto all'Ors. Sì. Dicevamo, questa nuova carena che non ha provato Dovizioso neanche nelle seconde libere appena finite, perché Dovizioso lui è sempre più conservativo, non vuole rischiare, mentre invece cosa Lorenzo si vede a occhio, cioè, con l'occhio ovviamente da esperto, cosa noti? A colpo d'occhio su quella carena. Allora, della Ducati, che qui è una pista dove le sue prestazioni possono fare la differenza, e quindi abbiamo visto anche uno Scott Redding, un Petrucci Underbank, quindi mi piace. La base Scott c'è. Redding è, sì, è un altro di quelli per molto cui tra l'altro lui andrà in MBDS, quindi cambierà anche lui casacca. È una pista dove la Ducati può far bene, è l'approccio differente tra Dovizioso e Lorenzo. Dovizioso dicevamo sempre più timido, più conservativo, non vuole provare la nuova carena, invece adesso Lorenzo l'ha provata, comunque è indietro, quindicesimo, non viene fuori il tempo, però è presto, è solo venerdì. Dovizioso invece con la vecchia carena è andato più forte, più veloce. Marquez sempre agitato sulla moto, questo rischio di caduta fa capire che appunto non si risparmia. Valentino zitto però era lì, quinto nelle prime. Io poi tu lo sai che non lo guardo neanche fino alla domenica. Per scaramanzia? No, so che non conta nulla. Posizione di Valentino sulla griglia è... Aspettiamoci è anche Vignales. E sai cosa, Carlo? Che un mese di pausa forzata è tanto. Perché roba, non tutti riescono a mantenere la concentrazione, l'allenamento fisico. Tu sai che è un mese di sono nati come gli hanno in Ibiza, in motocross, sì. Una fatica. Tra l'altro, oggi non abbiamo Leo, che non ci chiede come sta Belen. Ah, in vacanza. Così respiri. Avevo visto qualche cosa di gossip che stava tornando col suo ex, Belen. Avevamo motivi di argomento, però continuiamo a parlare allora di tecnica. Occhio che te lo chiamo. Se non mancavano 30 secondi alla fine del programma, ti chiamavo tu. Comunque sarà una grande gara e ricomincia lo spettacolo, questo è importante. Nessuno può dire chi può vincere questo mondiale. Io lo dico, attenzione a Marquez perché lo vedo parecchio in palla, però aspettiamoci di tutto, anche dalle Yamaha. Grazie Roby, grazie Roberto. A te, un saluto a tutti. Grazie Roberto Ungaro. Allora ci fermiamo, la settimana prossima ci tuffiamo, facciamo un bagno in mare, diciamo così, però staremo con voi sempre dalle 14 alle 15 e ovviamente poi torniamo. Giorgio De Luca, nostro autore, buone vacanze. Filippo Regina in regia, ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.